donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un'amabile, leggiadro viso, il pianto in viso è menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. E sempre misero, chi a lei sta timido, chi le confida, mal cauto il cuore. Pur mai non sentesi felice a pieno, che su quel seno non li va amore. La donna è mobil, qual piuma al vento, muta d'accento. Di pensier.